9. Il Delaware si fermò e annusò l'aria. Il cane è vicino. Il bianco sorrise, fece un cenno agli altri e avanzò, gli occhi puntati nel fitto della foresta. Ora che ci faceva caso, poteva avvertire l'odore di grasso d'orso. I selvaggi ne facevano una disgustosa pomata per proteggersi dagli insetti. La loro guida, invece, per non inquinare l'olfatto, aveva adottato il rimedio in voga tra i coloni: spalmarsi di fango. Il bosco si aprì in una radura, la luce colpì il suolo, gli uomini rimasero abbagliati. Un'ombra sfrecciò attraverso le frasche, un centinaio di yard davanti al gruppo di cacciatori. I bianchi la intravidero. Il Delaware correva già in quella direzione. Qualcuno urlò. Si gettarono all'inseguimento. La preda scavalcò cespugli e rami abbattuti, lanciata attraverso la radura. Addentrarsi nel bosco era l'unico modo per salvare la pelle. Fendette la vegetazione con l'agilità del cervo, ma l'erba alta e terreno sconnesso disturbavano la corsa. Il Delaware corse fin dove gli alberi diradavano, imbracciò il fucile e prese la mira. Un tuono percorse l'aria. Il selvaggio guizzò fuori dalla nuvola di fumo. Il drappello di cacciatori lo vide sparire tra gli alberi. Avanzarono fin dove la foresta l'aveva inghiottito e lo trovarono in piedi, fermo accanto a un grosso tronco. La guida alzò il fucile al cielo e lanciò un grido di trionfo. Alla base dell'albero giaceva la preda. Il Mohawk, nudo fino alla cintola, stringeva i denti, comprimeva il polpaccio con mani rosse di sangue. Le membra sudate fremevano. I bianchi esultarono e legarono l'indiano ferito. Il capocaccia lo perquisì e trovò quello che cercava: un foglio piegato dentro la fondina del coltello. Dopo una rapida occhiata si rivolse agli altri. Dannazione, è scritto in Mohawk! Nathaniel Gordon scosse il capo. Ecco cosa accade a forza di educare i selvaggi, pensò. Si chiese quale sarebbe stata la prossima novità. Una scimmia che recita i salmi? Si accucciò e tenne il foglio davanti agli occhi del ferito. Tra le dita colava sangue fresco. Le mosche avevano preso a sciamare. Leggi quel che c'è scritto, cane! Il Mohawk tacque. Gordon fece un cenno al Delaware che strasse il coltello e praticò un taglio sul braccio del prigioniero. Sollevò un lembo di pelle, lo staccò, lo mise da parte. Il Mohawk vibrò, scosso da tremiti, ma non emise un lamento. Il bianco ruggì di rabbia. Sventolò ancora il foglio davanti al naso dell'indiano. È un ordine dei Johnson, lo sappiamo. Cosa c'è scritto? Silenzio. Il Delaware praticò un nuovo taglio. Un altro pezzo di pelle si staccò, stavolta dal petto. Lo ripose accanto al primo. Ne avrebbe ricavato un sacchetto per il tabacco. Il Mohawk mise un sibilo tra i denti. Parla! Ringhiò il bianco. Uno degli altri lo fermò, mano sulla spalla. Non c'è fretta, Nat. Lasciamo fare all'indiano. I bianchi sedettero a poca distanza per bere da una borraccia mentre la guida completava il lavoro. Alla fine Gordon si alzò con aria spazientita. Tempo sprecato per la miseria. Fece un fischio al Delaware. Basta così. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Il Delaware si pulì le mani con una manciata di foglie e indicò il suppliziato. Grande uomo, disse. Il capo dei cacciatori guardò prima il Delaware, poi il Mohawk appeso per i piedi. Era ancora vivo. Rantolava, soffocato dal sangue che gli colava dentro le narici da ogni parte del corpo scuoiato. Non rimaneva più un solo lembo di pelle. Il viso capovolto, gli occhi più in basso del naso, era alieno quanto quello di un animale. Grande uomo, eh? Il bianco si avvicinò e sputò sul volto straziato.